Subhanallah il abadiyul abad. Sia glorificato Allah il perpetuo, il sempiterno. Subhanallah il wahid il ahad. Sia glorificato Allah l'assolutamente unico. Subhanallah il fard il samad. Sia glorificato Allah l'incomparabile, l'eterno. Subhanallah rafi'i samawati bighairi amad. Sia glorificato Allah l'elevatore dei cieli senza colonne. Subhanallah alladhi lam yattakhiz sahibatan wala walad. Sia glorificato Allah il quale non ha preso compagna né figlio. Subhanallah alladhi lam yalid wa lam yulad. Sia glorificato Allah il quale non generò né fu generato. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. E al quale nessuno è coeguale. Subhanallah il Malik il Quddus. Sia glorificato Allah il Re, il Santo.